sbaglio. Francia, ma verde sei diventato? Ho preso il virus corona. La birra? No, è il virus degli starnuti cinesi. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Pau pau. Ma Heidi, dai un bacetto a nonno che devo andare a raccogliere le stozzere. Non è possibile, nonno, c'è il virus. Al massimo ti posso dare il gomito. Che virus? Il virus è sparito. No, il Covid sta ancora. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid, non ce n'è. Non ce n'è Covid, non ce n'è. Buonanotte a tutti! Ricordatevi, ce la faremo!